9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, buon inizio settimana di Natale, buon lunedì 31 dicembre, solstizio d'inverno, giornata in cui si addensa non solo un'atmosfera complicata e previsione del tempo che ci metteranno a dura prova il nostro paese, ma che insieme ci consente di avere una riflessione su questi dati, su questo rapporto molto ampio che il Sole 24 Ore, come tutti gli anni, da diversi anni a questa parte, e quindi è interessante anche per l'evoluzione di queste serie storiche, compila con 6 criteri nei quali, con sottocriteri in ciascuna di queste 6 famiglie, mette in fila la qualità della vita in tutte le 107 province italiane. Il dato naturalmente si richiama per capoluogo di provincia, ma si riferisce nel complesso alle condizioni presenti in ciascuna di queste province. La pubblicazione del rapporto integrale l'ho trovata sul Sole 24 Ore di oggi. Il Sole 24 Ore sabato e domenica ha già anticipato gli elementi di questo rapporto e quindi sono iniziati i primi commenti, perché ripeto, anche se alcuni grandi giornali hanno ognuno il proprio criterio, la specificità di questa classifica del Sole 24 Ore è quella di avere il più ampio set di dati nel tentativo di metterli insieme e quindi di offrire un'interpretazione il più possibile non soggettiva, diciamo così. Vediamo un pochino quali sono, prima di arrivare alla graduatoria finale, di interrogarci su di essa insieme ai nostri ospiti che vi presenterò tra poco, e soprattutto di chiedere a voi cosa ne pensate se guardate il posto della vostra città, della vostra provincia nella graduatoria, e cosa pensate di che cosa si possa fare soprattutto per incentivare i responsabili delle amministrazioni pubbliche a migliorare il proprio posto in graduatoria. Ma vediamo un pochino quali sono i criteri con cui viene fatto questo dossier. Il dossier viene realizzato da e coordinato da Rossella Cadea, Roberto Del Giudice e Carlo Vaghi, colleghi del Sole 24 Ore. Sono 6 questi criteri. Il primo criterio ha una serie di indicatori che riguardano il tenore di vita, quindi il PIL pro capite nella provincia, i conti in banca medi della provincia, le pensioni, i consumi, l'inflazione, il costo della casa. Secondo ordine di criteri, quello che riguarda gli affari e il lavoro, cioè la mortalità delle imprese, le nuove imprese, i fallimenti, i protesti, gli occupati e le relative graduatorie. Terzo batteria di indicatori, quelli che riguardano l'ordine pubblico, cioè il numero di reati compiuti, furti in casa, rapine, truffe e così via. Quarto sottoinsieme di indicatori, quello che riguardano i servizi e gli ambienti, cioè come funzionano le infrastrutture, il livello di inquinamento dell'ecosistema, clima, e poi i decessi e i dati riguardanti l'epidemiologia che caratterizzano la popolazione in quella provincia. Infine, un'altra batteria che riguarda la popolazione, quindi gli abitanti, la loro densità, i trasferimenti, i trend della natalità e quanti partecipano al mercato della formazione del capitale umano, quindi quanti giovani, quanti laureati e quanti stranieri. Sesta e ultima indicazione, criteri che riguardano il tempo libero e la relativa qualità, quindi quanto è il consumo di spettacoli, di libri, di cinema, il livello della ristorazione e densità, attività del volontariato, che è uno dei grandi capitoli che danno l'idea del capitale umano, dello spessore del capitale umano, che è una delle condizioni dello sviluppo, attività sportive e cose di questo genere. Allora, la somma dei tanti sottoindicatori di queste 6 categorie porta a una graduatoria in testa alla quale c'è Trieste con 641 punti, che rispetto al 2008 passa dalla sesta alla prima posizione. In fondo, posizione di coda, c'è Agrigento con soli 450 punti e che perde posizioni perché era al 101esimo l'anno scorso e va al 107esimo. In generale è ovvio che la fotografia che ci viene restituita è quella di una permanente dualità molto forte nel nostro paese, quindi nord in testa e sud verso il fondo della classifica. In particolare c'è un dato: il nord-est, con Trieste, Belluno e Sondrio e nelle prime posizioni, si rafforza il trend che vede nel nord-est la parte in cui il complesso tra indicatori dell'economia, quelli che riguardano la demografia e quelli che riguardano la cultura e la qualità della vita, si afferma come il meglio del meglio rispetto al nostro paese. E poi naturalmente ci sono tante riflessioni da compiere. È inevitabile, per esempio, che nella graduatoria che riguarda l'ordine pubblico in fondo alla graduatoria, cioè tutti gli ultimi posti sono quelli rappresentati dalle grandi città, a prescindere se si tratti di nord o sud nella graduatoria dell'ordine pubblico. Se andiamo a scendere dal posto 102 a 107 troviamo Catania, Roma, Bologna, Milano, Genova, Torino. È evidente che le grandi città dal punto di vista dell'ordine pubblico rappresentano un addensato di problemi maggiori, e invece paradossalmente nella graduatoria dell'ordine pubblico, a differenza di quanto ci si potrebbe attendere, molte province del sud rappresentano posizioni molto alte, perché per esempio Oristano al secondo posto, Campobasso al quarto, Potenza al quinto, Crotone al settimo, nessuno se l'aspetterebbe, e invece Crotone al settimo posto, Matera all'ottavo, al nono Enna, al dodicesimo Lecce. È un po' singolare perché ci sono alcune province intorno alle quali il luogo comune, l'opinione comune è quella di un fortissimo addensamento, di criminalità organizzata, dei reati eccetera, e invece secondo gli indicatori poi dei reati compiuti eccetera eccetera vige una pace assoluta, e quindi sono in testa nell'ordine pubblico, e così via. Nella graduatoria del tempo libero, per esempio, batte tutti Rimini, che è, lo vedremo perché uno degli ospiti è il sindaco di Rimini, è una delle parti d'Italia che del resto sale di più quest'anno in graduatoria, perché passa dal 39esimo posto al decimo posto, e quindi ci interrogheremo con i suoi amministratori sul perché e sul per come. Io invito tutti voi, se avete dato un'occhiata al posto che la vostra città, la vostra provincia ha in graduatoria, a farci sapere cosa ne pensate. Ma in generale la mia opinione è questa: bisognerebbe introdurre un indicatore, una specie di grande gara nazionale per la quale al miglioramento di alcuni indici di performance, di qualità della performance, gli amministratori pubblici del comune, capoluoghi, anche della provincia, hanno più risorse a disposizione. Quelli che anno dopo anno vengono misurati secondo alcuni benchmark che devono essere condivisi, di qualità dell'offerta, del servizio e quindi anche di qualità della vita, che invece peggiorano, devono essere disincentivati, cioè avere meno risorse a disposizione. Se non facciamo così, in base a che cosa lo differenziamo la capacità dell'amministratore? Questa è la mia semplice proposta, su cui vi chiedo di intervenire per sapere se siete a favore o contro il federalismo, o lo facciamo introducendo criteri di questo tipo, di premio e di primarietà positiva e negativa per le risorse a disposizione su graduatorie come queste, che vanno appunto col crisma del pubblico, non dico prendiamo quelle del sole, ma insomma così, o altrimenti che federalismo è? Più risorse per tutti e basta? Io sono contrario a quel federalismo lì. Detto questo, andiamo agli ospiti, ai quali chiediamo un'interpretazione più ampia di queste poche parole mie introduttive su che cosa ci dica questo grande rapporto sulla qualità della vita nelle 107 province italiane. Vi presento i nostri ospiti. Sono innanzitutto il professor Carlo Trigilia, che insegna mi insegna sociologia economica al Cesare Alfieri di Firenze, è un grande interprete delle evoluzioni delle identità territoriali da sempre del nostro paese nell'evoluzione del suo complesso sviluppo. Buongiorno professor Trigilia. Buongiorno. E poi Daniele Marini, che insegna sociologia del lavoro all'Università di Padova e direttore scientifico della Fondazione Nord-Est, in particolare per approfondire l'eccellenza appunto della Fondazione Nord-Est in questa graduatoria, perché è l'area da cui si addensano un bel po' di primati nella graduatoria. Buongiorno professor Marini. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Allora, cominciamo da Trigilia. Innanzitutto, nella fotografia di quest'anno, quindi di un anno di crisi, la più profonda crisi del dopoguerra, quali sono i cluster, i sottoinsiemi territoriali, le diverse identità territoriali che secondo lei si affermano come quelle più dinamiche, meno piegate insomma dagli effetti della crisi? Siamo solo alla dualità nord-sud o c'è una diversificazione territoriale, distrettuale, eccetera, che conferma le analisi che facciamo di anno in anno? C'è un quadro più articolato, direi. C'è stata sul Sole di sabato è stata pubblicata una bella cartina dell'Italia nella quale hanno cercato di proiettare questi risultati, e se uno la guarda coglie subito alcune diversità rilevanti al di là di quella che lei già ricordava, che è molto evidente tra nord e sud. Cioè, se noi guardiamo in termini di qualità della vita quali sono le province che vanno meglio, è inevitabile riscontrare che c'è una sorta di economia dei confini naturali, per così dire, cioè dire è l'arco alpino e poi le coste fino a Grosseto da un lato, Rimini, Ravenna dall'altro, le zone costiere e le zone alpine che vanno meglio. Questo secondo me è un dato che deve essere letto con un po' di preoccupazione, perché invece dentro questa cornice come dire, dei confini, delle parti alpine e marittime, c'è l'Italia dove si concentrano le principali attività produttive, i servizi più moderni, cioè l'Italia dell'asse padano tra il Piemonte e il Nord-Est, l'Italia anche distrettuale tra l'Emilia, le Marche fino agli Abruzzi. Cioè, che cosa ci dicono questi dati? Ci dicono che noi non riusciamo a conciliare bene la presenza delle attività produttive più moderne, delle maggiori concentrazioni di popolazione, le aree, grandi aree metropolitane, Milano, Bologna, Firenze, lei già lo ricordava, con un'elevata qualità della vita. Questo è un po' un problema per il paese, perché oggi, diciamo, i processi di innovazione sono strettamente legati alla capacità di accompagnare le attività economiche più moderne con un'offerta di servizi culturali di qualità, con una capacità di controllare il traffico, l'inquinamento, di avere migliori comunicazioni. Ecco, questi dati ci dicono purtroppo che se noi vogliamo trovare una qualità della vita migliore dobbiamo andare al mare e ai monti, però un paese moderno non si può permettere solo di stare al mare e ai monti. Anche perché poi ho l'impressione che l'incapacità progressiva confermata di sapere risolvere efficacemente i problemi delle macroaggregazioni urbane testimoniano poi un po' di arretratezza sulle reti fondamentali, che sono quelle reti materiali di trasporti, reti immateriali di comunicazione, fenomeni di addensamento e di formazione del capitale umano meno intenso e di qualità meno elevata che quella dei grandi paesi con cui siamo concorrenti, perché il capitale umano poi si forma soprattutto nei grandi centri più che nelle aree delle università disperse sul territorio, che per carità hanno la loro importanza, ma è difficile che poi siano in grado di rappresentare e di aggregare eccellenze vere. Quindi, secondo il professor Trigilia, da una parte la conferma della provincia italiana come isola di benessere, dall'altra però anche un indicatore che non ci siamo molto, se capisco bene, sullo sviluppo comparato. Marini, invece, perché il Nord-Est di anno in anno si sta affermando come la parte un po' trainante? E qual è la parte che pesa di più? È quella della componente economica, del trano sviluppo economico, la densità di piccola e media impresa, o il fatto che in realtà si campa meglio da quelle parti? Ovviamente, come sempre, sono un mix di questioni che si incrociano fra di loro. Credo che ci siano almeno due dimensioni che vale la pena sottolineare, poi se posso vorrei insistere sui concetti che ha introdotto Trigilia. Credo che al di là degli aspetti, diciamo così, più strettamente produttivi, in questi anni nel Nord-Est in particolare sono stati fatti due investimenti. Da un lato un investimento investimenti di natura culturale, di valorizzazione del territorio, di valorizzazione sia di quelle che sono le risorse tradizionali ma anche, diciamo così, ambientali, e non a caso, appunto, come sottolineava Trigilia prima, se si guarda quella bella cartina, appunto, che è stata pubblicata sabato dal Sole, si vede come esattamente tutte le aree, diciamo così, alpine e subalpine delle province nordestine sono quelle che risultano essere fra le migliori come condizioni secondo questi indicatori. Quindi da un lato c'è stato un investimento, diciamo, in questi aspetti espressivi, culturali, delle realtà provinciali, da un lato. Dall'altro c'è anche l'elemento della coesione sociale, che se da un certo punto di vista è ovviamente sotto stress per i fenomeni come quelli migratori piuttosto che quelli del, diciamo, allargamento delle maglie, delle reti familiari e così via, però tutto sommato in queste aree continua a tenere. Non a caso i fenomeni associativi e di volontariato in queste aree del paese sono ancora quelle più densamente presenti, e quindi continuano a sostenere questa rete di capitale sociale e anche capitale culturale che serve a tenere alto, diciamo così, l'asticella della realtà sociale ed economica. Però ecco, al di là di questo, se posso, volevo intervenire sulle questioni che sottolineate Trigilia, sulle quali sono assolutamente d'accordo, e appunto in questa cartina la cosa che emerge è che è proprio la fascia, diciamo così, pedemontana del nord, se si osserva bene, quella, cioè, ovvero a maggiore presenza di aree distrettuali e imprenditoriali, che è quella che soffre un po' di più in questo processo. Esattamente. E quindi sottolineo questo aspetto che diceva Trigilia, e cioè del fatto che è proprio da qui che parte, che può partire il motore della ripresa, le trasformazioni sociali ed economiche più, diciamo così, incisive, alle quali bisogna prestare attenzione. E vorrei infine chiudere su questo. Mediobanca e Unioncamere ogni anno, da alcuni anni a questa parte, realizzano un rapporto sulle medie imprese in Italia, le medie imprese industriali. È il famoso rapporto sul cosiddetto quarto capitalismo, le 4200 imprese che costituiscono ormai il punto di riferimento per capire qual è l'evoluzione della parte più dinamica verso l'export e così via. Esattamente, se noi potessimo sovrapporre le due cartine vedremmo esattamente la stessa immagine, e cioè di un'area produttiva trainata dalle medie imprese che io chiamo nord-centro-adriatico, che è esattamente la stessa presenza della qualità della vita in Italia. A dire sostanzialmente è un'ipotesi, diciamo così, che l'asse dello sviluppo geoeconomico nel nostro paese passa attraverso esattamente il nord e una parte del centro e il versante adriatico, così esattamente come la cartina del Sole 24 Ore mostra sabato. Ora una domanda per Trigilia, ma anche poi per Marini. Intanto un avviso a chi ci ascolta: lo trovate non solo su Sole 24 Ore, anche di oggi, tutte le 36 classifiche disaggregate di questo rapporto, ma sul sito trovate tutti i dati, potete mandare fotografie, e vi invito a chiamare qui, ma anche a rendervi interattivi con il sito del Sole. Però una delle cose che mi ha colpito è che, se andiamo a vedere la sottoclassifica che riguarda gli indicatori della popolazione, cioè quelli insomma su quanto più a lungo, quanto con meno malattie si campa meglio nel nostro paese, abbiamo una singolare fotografia di una parte d'Italia diversa da quella in cui si addensa invece più dello sviluppo, e che quindi è anche quella che tende a soffrire di più, come abbiamo visto in questo anno di crisi. Perché negli aggregati che identificano appunto la popolazione, e se andiamo a vedere quali sono le province in testa, troviamo Olbia Tempio in testa alla graduatoria nazionale, poi Viterbo, poi Grosseto, Rieti, Perugia, L'Aquila, Piacenza, Ogliastra, Siena, Macerata, Arezzo. Cioè è una fotografia in cui i primi 20 posti, Pordenone, Ravenna e così via, sono i classici posti nei quali da una parte avremmo l'idea, la vecchia idea dei britannici in pensione che si comprano la villa in collina, ma dall'altra, dobbiamo essere sinceri, non è a Olbia Tempio certo che si addensa purtroppo il più della crescita italiana. Trigilia, quanto di questi fenomeni, cioè l'addensarsi della qualità nel senso di meno malattie, meno problemi, più coesione sociale anche, perché sono posti di fortissima coesione sociale, che non si individua con lo sviluppo economico in questa fotografia invece di questo rapporto, quanto rappresenta vecchie identità e quanto rappresenta invece una maniera effettivamente di risolvere i problemi amministrativi e di qualità dei servizi anche con poche risorse, senza grandi tessuti produttivi, secondo lei, che ha visto l'evoluzione nel tempo della capacità di saper amministrare e innalzare la qualità? Cioè è una vecchia Italia questa, o è una nuova Italia che si propone come modello con poche risorse di grande efficienza? Ma guardi, io direi che in linea di massima è soprattutto un'eredità del passato, che non è stata investita pesantemente da processi di industrializzazione e di urbanizzazione, e quindi il governo locale è stato meno caricato di problemi. Poi possono essere stati anche più o meno bravi, ma sicuramente hanno avuto molti meno problemi delle aree metropolitane o delle aree distrettuali. Questo che lei sottolinea è appunto un altro modo di dire che il nostro paese ha incontrato tradizionalmente difficoltà a coniugare, diciamo, i grandi fenomeni di sviluppo economico, di urbanizzazione, di modernizzazione del paese, con la capacità di assecondarli in termini di controllo del territorio, di controllo dell'inquinamento, di miglioramento delle comunicazioni. Questa è una storia vera che risale già a 40 anni fa per quanto riguarda i grandi centri urbani e industriali del nord-ovest, e proprio quella incapacità costò allora un conflitto sociale e industriale molto forte, di cui poi il paese ha pagato a lungo le conseguenze. Ma la cosa che vorrei sottolineare un momento ancora riguarda il fatto che noi abbiamo assistito, per così dire, a una seconda puntata, perché negli anni 70 e 80 quella defaianza delle grandi aree industriali nel nostro paese è stata più che compensata da queste aree distrettuali di cui parlavamo prima, lungo l'asse padano verso il nord-est e dall'Emilia, Lombardia, Veneto verso la Toscana, le Marche, eccetera. Ora, quello che noi vediamo è che mentre, se osserviamo, se andiamo a prendere le classifiche ingiallite di qualche anno fa del Sole 24 Ore, troviamo che le province distrettuali, Modena, Padova, Bergamo, Firenze in parte, le Marche, Verona, Vicenza, erano tutte nelle prime posizioni di classifica. Oggi ormai da diversi anni sono scese giù. Che cosa vuol dire? Vuol dire che anche qui, dopo che si è manifestato lo sviluppo, dopo che si è manifestata una elevata capacità di industrializzazione, si sono erose quelle basi sociali tradizionali di coesione, ma anche di capacità dei governi locali di seguire un po' lo sviluppo del territorio, e queste aree diventano sempre meno capaci di coniugare una qualità della vita elevata che avevano prima con i problemi nuovi dello sviluppo industriale, infatti, della riorganizzazione, certo, dei distretti. Quindi questo è una sorta di indicatore di un disagio più generale del paese, che deve essere affrontato, come lei diceva, anche in prospettiva dal punto di vista dell'intervento politico, tanto più che oggi la sfida dello sviluppo incrocia necessariamente la sfida delle città. Esattamente. Non c'è sviluppo senza innovazione, senza città. Sono d'accordo sul fatto che sono le identità territoriali locali, quelle, le diverse fasi propulsive, le diverse forze propulsive. Non esistono solo questioni nazionali, anzi, è dalle risposte dei tessuti connettivi locali che c'è la produttività multifattoriale. Ora, introduzione alla pubblicità, grazie al professor Trigilio Marino. Eccoci tornati in studio sul grande rapporto sulla qualità della vita nelle 107 province italiane, pubblicato dal Sole 24 Ore. Trovate oggi l'integrale sul sito e sul giornale delle 6 tipologie di indicatori e 36 sottograduatori. E da 3 giorni che però il Sole 24 Ore anticipa elementi di questo tipo. Ne abbiamo parlato insieme al professor Marini della Fondazione Nord-Est, insieme a caro Trigilia, professore di sociologia economica, un grande osservatore nel tempo del contributo delle identità territoriali italiane allo sviluppo, e abbiamo adesso collegato con noi il sindaco del vincitore, insomma, di questa graduatoria, cioè di dove si identifica il meglio del meglio della qualità della vita italiana, fatta per crescita economica, qualità dei servizi pubblici offerti alla cittadinanza, qualità dell'ambiente, qualità delle condizioni in cui vive la popolazione e anche qualità del tempo libero, delle offerte culturali. E cioè abbiamo con noi il sindaco di Trieste, Roberto Di Piazza. Buongiorno signor sindaco. Buongiorno dottor Giannino, buongiorno a lei. Allora, lei, insomma, di anno in anno, visto che poi Trieste se la batte di anno in anno ai primi posti, non è la prima volta che sta al primo posto, diciamo, a fine anno ha questa potenziale di comunicazione nazionale aggiuntivo che gli viene dal fatto che Trieste batte il resto d'Italia, e di volta in volta il resto del paese con questa posizione deve fare i conti con la ragione per cui Trieste è in testa a questa graduatoria. Io lo ricordo un po' a tutti, così ce lo rinfreschiamo: la più alta percentuale di lavoratori ricercatori, appunto, impegnati nella ricerca, non solo nelle imprese ma nel parco scientifico, nelle università, che sono l'eccellenza delle eccellenze di Trieste, non solo nel nostro paese ma in un bel quadrante europeo. Tutti tendiamo a dimenticarcelo il resto dell'anno, poi alla fine dell'anno tendiamo a ricordarcelo grazie a questo, e nonché tante altre buone ragioni, perché poi state ottimamente piazzati anche per esempio nella classifica di servizi e ambiente, in cui Trieste primo posto assoluto con 841 posti, distanziando moltissimo Varese, Genova, Roma e così via. In generale, per lei che è un sindaco oramai di lungo corso, lo ricordo che ci ascolto, sindaco di centrodestra, Rimini di centrosinistra, qui non si fa questione politica, si fa questione di efficienza ed efficacia nell'unità di tempo per migliorare le proprie posizioni. Lei è un sindaco di lungo corso oramai, insomma, sono anni e anni. Accetterebbe un criterio per il quale, se ci fosse un indicatore, un benchmark di competitività, ma insomma degli indicatori condivisi oggettivamente, elaborati in maniera centrale e periferica, con dati condivisi standard a livello nazionale, accetterebbe l'idea, in base a quello, di perdere risorse nel caso si scendesse le posizioni, o di guadagnarne se si migliorasse di posizione come vero criterio per fare il federalismo competitivo. Senza di questo, attribuire le risorse solo in base a densità di popolazione, reddito pro capite più o meno distante da quello della media nazionale, non significa prescindere da che cosa davvero siete in grado di fare. Mi scusi la domanda, perché le chiedo una risposta insieme sui successi di Trieste, ma anche su come usare report di questo tipo. Finché li faranno giornali e cose private sono utili, ma forse bisognerebbe diventassero la griglia di quello che fate voi come amministratori, per giudicarvi non solo in base alla cosa politica, ma per consentirvi di avere più soldi se fate meglio. Lei che dice? Credo che lei ha colpito perfettamente, però devo raccontare velocemente. Io sono un imprenditore e ho gestito la città come un'impresa e non come un erogatore di servizi, famosa frase che si usava da molti anni. Naturalmente con questo abbiamo uno dei migliori bilanci del paese, abbiamo una qualità della vita che si riscontra da questo, abbiamo un conto economico straordinario. Mi permetto di dire che ho alzato le tasse a Trieste, pagano le tasse più alte del paese probabilmente, però se il cittadino vede i risultati le paga anche volentieri, cioè una tassa di scopo finalizzata a un progetto, il cittadino ci sta. Secondo problema, certo, la meritocrazia, abbiamo attivato anche questo nel nostro comune, abbiamo ridotto i dirigenti, io l'ho trattata come un'azienda, anche perché non sapevo fare altrimenti quando ho cominciato a fare politica, e ormai sono 8 anni che guido questa città. Già nel 2005 ero risultato primo con il Sole 24 Ore, adesso abbiamo ripetuto nel 2009, ma mi creda, l'unico sistema è quello che dice lei, cioè nei prossimi anni le risorse devono essere distribuite a chi risparmia. In questi giorni ho sentito il sindaco di Agrigento che mi ha chiamato perché vuole venire qui a vedere come la mia città, e lui mi ha detto appunto, in quell'isola, in quella città, i denari servivano solo per creare posti di lavoro facili o qualcosa di simile. I risultati nel nostro paese li abbiamo visti. Devo anche dire che i sindaci sono quelli che funzionano in Italia, anche perché c'è una legge elettorale adeguata, altrimenti personalmente non avrei mai fatto il sindaco se non ci fosse l'elezione diretta, tanto per capirsi. No, temo che questo che indica come fosse un problema in passante è in realtà un problema fondamentale, perché consente la selezione e l'individuazione di responsabilità in un meccanismo di rappresentanza e decisionale. La legge elettorale nazionale, come è noto, questo non lo consente altrettanto, quindi credo che questo sia un meccanismo esterno. Le chiedo di rimanere con noi qualche minuto, perché il sindaco di Rimini, che è un medico oncologo, ci fa sapere che ha un po' di pazienti in studio e quindi non sa se può rispondere al nostro appello, perché volevo che Rimini ci spiegasse come ha guadagnato tante posizioni passando dal 39esimo al 10° posto. Ci sono alcuni ascoltatori con la loro voce e magari li commentiamo poi insieme al sindaco di Trieste. Cominciamo con Giuseppe da Prato. Buongiorno Giuseppe, dica. Buongiorno, sono in linea? Sì, prego. Io volevo semplicemente rispondere al quesito che ha posto lei sul discorso se vale la pena fare una griglia per testare l'amministrazione. Sì. Ma i trasferimenti alle amministrazioni provinciali, regionali, eccetera, in caso di una palese cattiva amministrazione, non porterebbero, una volta ridotti, non porterebbero per esempio a far sì che gli amministratori approfittino anche di quel poco per pensare al proprio entourage piuttosto che, quindi cioè non peggiorerebbe ancora più la situazione? Ma Giuseppe, il problema è che secondo me renderebbe i cittadini in maniera più evidente ai loro occhi il fatto che gli amministratori non sono buoni amministratori, se in una graduatoria comparata di efficienza, qualità del servizio, su come si risolvono più rapidamente i problemi, su come migliorano le condizioni delle polveri sottili nell'aria eccetera, e con meno risorse significherebbe certo che tutti ci vanno di mezzo, quindi a quel punto il giudizio diventerebbe più concreto, non solo di simpatia politica o di quanti della propria famiglia o rete relazionale vengono assunti o non assunti dall'amministratore pubblico. Io temo che questa sia una questione fondamentale. Mi rendo conto che i sindaci dicono: ah, noi siamo già penalizzati dal patto di stabilità interno, quelli che di noi hanno le risorse nei residui attivi non possono impegnarle per questo stupido patto e per come non è stato migliorato quest'anno. Me ne rendo conto che c'è un problema di risorse, però secondo me la capacità di spendere con risultati concreti va premiata, chi non è capace di questo va penalizzato, e quindi ci vanno di mezzo i loro cittadini, e quindi quei cittadini lo cacceranno la prossima volta. Questa è la mia banale idea di democrazia dal basso. Vediamo qualche altra voce. Abbiamo Tirri da Verona. Prego Tirri. Buongiorno Cesarino, io infatti questa è la sua idea di democrazia del basso che un po' contesto, nel senso io dico che è un po' quantomeno prematuro e azzardato basarsi su un dato così contestabile per poter elargire anche una certa per proporre al legislatore di premiare o punire qualcuno. Lei dice questi criteri non sono oggettivi, è questo il punto? No, perché io ti filo da una classifica che nell'analizzare dei fenomeni di aggregamento sociale che sono complessi, cioè di una gatta di 100, che uno passi di 30 posti da un anno all'altro, mi fa venire un minimo dubbio. Di dubbi che una possa passare da un anno all'altro di 100 posti, fenomeni complessi come questi. È un po' strano. È un po' strano, ma vede, posso dirle, io adesso non sto difendendo nel merito ogni sottospecifica delle 36 classifiche fatte dai colleghi del Sole coordinando dei ricercatori, anche se però io tendo a immedesimarmi in un paese in cui c'è un linguaggio quantitativo che va condiviso, perché se noi di fronte a ogni criterio statistico, numerico, di indagine, ciascuno si alza e dice no, questa è una questione soggettiva, è un paese che non ha strumenti quantitativi condivisi, è un paese che si condanna, ma non al declino, si condanna all'anarchia, perché ciascuno, come capita regolarmente in radio, in televisione, dice no, il dato non è quello. Ho capito. Allora, non è possibile secondo lei fare delle graduatorie comparate davvero, degli indicatori di performance? Perché secondo lei è possibile farlo nel mondo delle imprese e dell'economia e non in quello delle amministrazioni? Allora, così come il sindaco di Rimini, io faccio il medico, sì. Se io leggo un'analisi statistica di un dato, di un fenomeno complesso, dico in medicina saranno come fenomeni sociali, come le malattie. Certo. Se si migliori una graduatoria di 100, di 100 posti, che si migliori di 30 da un anno all'altro, io ho dei dubbi sui metodi di rilevamento e di analisi. No, però vede, di 100 non c'è il miglioramento, di 100 non c'è, cioè, da che c'è questa analisi del sole non è che chi stava al 107° è diventato primo, se uno va a vedere i miglioramenti sono in realtà abbastanza graduali, per dire il miglioramento più clamoroso nelle prime posizioni di quest'anno in graduatoria riguarda per esempio Macerata che è al quarto posto e stava al 14°, quindi stiamo parlando del miglioramento dei 10 posti, Rimini era particolarmente rilevante perché quest'anno è al 10° posto in graduatoria ed era al 39°, ecco, quindi effettivamente in quel caso 29 posizioni sono tante, ma se uno va a vedere poi in realtà c'è una certa persistenza nel medio periodo, cioè chi sta basso in graduatoria, Messina quest'anno sta al 93° e stava purtroppo all'82° e scende, Salerno che sta al 95° stava al 90° e scende e così via, quindi c'è una, secondo me, se fatto seriamente, questo mi sembra molto fatto seriamente, c'è la possibilità di individuare dei criteri. Detto tutto questo, torno dal sindaco di Trieste. Lei dice, io ho portato un'esperienza che mi sono formato all'interno di un'impresa, ma questo significa che nell'amministrazione pubblica a Trieste la possibilità di cambiare in maniera così significativa da un anno all'altro, lei l'ha verificata come possibile oppure no? Diciamo che non esiste che da un anno all'altro puoi cambiare, esiste una pianificazione, io ho un progetto per la mia città che si è realizzato con opere enormi che naturalmente hanno cambiato completamente la faccia della città, la qualità, aree pedonali e grandissime opere, questo va fatto dopo, da un anno all'altro non so come può cambiare molto, però ripeto, io nei miei 8 anni da sindaco di Trieste sicuramente visivamente la città è cambiata, noi abbiamo, le dico una cosa, le scuole materne comunali che è un'altra cosa che in confronto alle statali hanno un'efficienza completamente diversa e migliore, però dico anche a chi si lamenta sempre, io non ho mai fatto derivati, tanto per capirci. Bravo. Le risorse ci sono, io ho un bilancio tranquillo, io chiudo il bilancio tranquillamente quest'anno, naturalmente bisogna fare le formichine, chi ha fatto le cicale e chi lavora più per partito politico che per la propria città è chiaro che è in difficoltà, finiamole di dire che non ci sono risorse, dobbiamo smetterla di dire che non ci sono risorse, io non ho nessun problema. Oltretutto mi pago anche, ripeto, le scuole materne comunali con 1000 dipendenti in più che le altre città d'Italia non hanno. Abbiamo i ricreatori che nel nostro paese le altre città non sanno nemmeno cosa sono, dedicate ai giovani. Cioè, intendo dire, se uno amministra come amministra la propria casa, la propria azienda, non Sindaco, non dipende dal fatto che il Friuli Venezia Giulia in cui insistete ha un'autonomia speciale per risorse? No, assolutamente benissimo. No. Uno ha un bilancio all'inizio dell'anno di previsione e con quello deve giocare. Siccome se uno fa così e negli anni non mette delle poste attive false, perché anche di questo stiamo parlando, spesso per chiudere i bilanci mettono, se uno fa le cose bene poi alla fine non può che ritrovarsi bene. Ripeto, io quest'anno non ho nessun problema, nel prossimo, negli anni passati, a chiudere i bilanci. Io ringrazio il sindaco di Trieste, un'ultima chiamata e poi abbiamo l'informazione sulla circolazione stradale. Ivo da Bergamo, prego, la devo pregare di essere breve, prego Ivo. Buongiorno, niente, allora solo un'osservazione brevissima, più moralista che tecnica, ma dal mio punto di vista più che incentivi io promuoverei delle sanzioni per gli amministratori che non fanno il proprio dovere. Ma questo infatti è, si premia chi dà buoni risultati e si levano risorse a chi quei risultati non li produce invece, oppure sfora i deficit senza risultati. Il meccanismo è, non ci sono solo i premi, cioè, ci sono i premi e le sanzioni, come dice lei. Eccoci tornati in studio e dopo aver esaminato alcuni soldi spunti, dei tantissimi spunti che vi invito ad approfondire andando a compitare le graduatorie sulla qualità della vita nelle 107 province italiane che trovate sul Sole di Oggi, sul sito, con ampia possibilità di interlocuzione con fotografie e scritte da parte vostra, ci occupiamo in questa seconda parte della trasmissione, in questa parte finale anzi, di una questione che abbiamo sollevato qualche settimana fa e che con grande soddisfazione, secondo me, abbiamo fatto bene a sollevare. Ricordate quando abbiamo fatto la puntata partendo dal, come spunto da la denuncia pubblica fatta dal presidente della Confindustria di Belluno e Dolomiti, Valentino Vascellari, perché cosa era successo? Era successo che l'Agenzia delle Entrate, dopo l'impegno che era stato assunto in quest'anno di profonda crisi per le imprese da parte dell'Agenzia delle Entrate di essere più comprensiva nei confronti del pieno pagamento di quanto dovuto, consentendo per una miglior disposizione degli adempimenti, pieni adempimenti fiscali per quelle imprese che hanno difficoltà di cassa, e quest'anno sono tanto, una diminuzione della sanzione prevista, passando dal 30 al 3%, e poi, malgrado questo impegno pubblicamente assunto dall'Agenzia delle Entrate, che ripeto non fa sconti su quanto si deve l'imposta, ma modula diversamente invece la pesantezza delle sanzioni, tentando di venire incontro a chi vuole fare il proprio dovere fiscale ma la cassa vuota, improvvisamente l'Agenzia delle Entrate si scatenava dicendo: neanche per idea, noi vi buttiamo la finanza nelle vostre imprese e voi ci dovete tutto quello che ci dovete, perché altrimenti le sanzioni restano esattamente pesantissime come quelle di prima. Quindi un caso conclamato di Stato che si rimangia la parola, non solo si vuole tutto quello che ci piglia dalle tasche, ma per di più, dopo aver detto che per comprensione verso chi sta peggio le sanzioni diminuivano, niente, dice no, le sanzioni restano durissime. Il presidente di Confindustria Belluno, ricordate, Vascellari, se ne esce con dichiarazioni pubbliche che fanno molto dibattere in Veneto, nel nord-est, perché rappresentanti del sindacato, di altre categorie, dicono: ah, i soliti imprenditori che chiedono lo sconto fiscale solo per loro. Ecco, noi siamo lieti di tornare con questo argomento sul presidente Vascellari, col presidente Vascellari. Buongiorno presidente. Buongiorno. Perché nel frattempo che cosa è avvenuto, presidente? Lo dica lei a chi è in ascolto, perché qualche volta si può essere anche legittimamente soddisfatti di fare polemica, quando poi, esponendosi alla polemica, esponendosi anche magari al fatto che l'Agenzia delle Entrate e della Finanza potrebbe anche a quel punto farsi girare un po' le scatoline e usare il pugno duro, però talvolta si vince, come forse è avvenuto in questo caso, o no? Ma direi proprio di sì, perché l'Agenzia delle Entrate, nella persona del direttore generale, ci ha chiamato, non ha chiamato noi, non ha chiamato espressamente noi, ha chiamato Confindustria, di cui noi siamo parte, noi siamo stati stimolo di questo, ma non ha chiamato solo Confindustria, ha chiamato le altre associazioni di categoria. C'è stato un incontro serrato, un incontro molto franco, ma alla fine al termine del quale l'Agenzia delle Entrate ha preso atto della ragionevolezza delle nostre proteste e ha deciso di dare un'applicazione non letterale di quello che stava avvenendo, ma un'applicazione che consiste nel dire: faccio partire degli accertamenti solo nei confronti non di quei contribuenti che hanno dichiarato il reddito che vogliono pagare ma che non hanno i mezzi per pagare da poco, che sono quindi vittime della crisi mondiale che ci colpisce tutti, ma soltanto di quei contribuenti che anche nel passato svariate volte avessero avuto un comportamento un po' omissivo, un po' di ritardo, allora in questo caso faccio scattare l'accertamento. Negli altri casi no, perché andrebbe contro le previsioni e le agevolazioni che sono date da uno dei decreti anticrisi. Beh, e quindi secondo me vale molto la pena. Io lo dico perché talvolta vengo accusato di chiedere a chi ci ascolta, ai piccoli imprenditori, ai lavoratori autonomi, ai commercianti, di farsi molto sotto per il rispetto dei propri diritti e per chiedere anche il cambiamento delle posizioni fiscali, soprattutto poi per chi è soggetto di studi di settore e così via, di chiedere a questo governo, nelle sue articolazioni dell'amministrazione fiscale, di considerare cose che pure sono state introdotte nel nostro ordinamento, come il consolidato distrettuale, di cui non si vedono i segni. C'è stata una sentenza alla Corte di Cassazione ieri che riguarda gli studi di settore, bisogna che tutti se la ricordano bene, in caso delle articolazioni periferiche dell'Agenzia delle Entrate la pensino diversamente. In generale c'è anche un'altra questione, e siccome abbiamo tenuto collegato con noi Daniele Marini della Fondazione Nord-Est, la giro a lui. Molto spesso nella pubblicistica italiana, nei dibattiti dei giornali, la questione del Nord-Est rispetto all'evasione fiscale, rispetto alla maniera di regolare il proprio obbligo fiscale, è un luogo comune ricorrente, per dire che è una delle aree del paese in cui si addensa storicamente una minore adesione spontanea, per così dire, all'ordinamento. Io lo considero un luogo comune completamente sbagliato, che confonde le tipologie particolari del lavoro e dell'impresa del Nord-Est e quindi il fatto che vi insista più piccola impresa, più lavoro autonomo, col fatto che ci sia una maggiore propensione all'evasione. Il punto di vista di chi la Fondazione Nord-Est vede l'evoluzione negli anni del tessuto produttivo e anche degli obblighi fiscali di questa parte del paese, qual è? Ma la risposta mi pare in qualche misura pleonastica, nel senso che è evidente che se noi prendiamo i semplici dati così, è chiaro che dove c'è più impresa è più facile che ci sia una possibilità di evasione, no? E quindi è chiaro che il dato direbbe sostanzialmente questo. In realtà invece non è così, perché come noi abbiamo visto in questi anni, non solo studiando l'economia e la società di quest'area, ma queste sono le aree dove la coesione sociale e quindi anche il rispetto delle norme è fra i prevalenti in Italia. Guardiamolo da un altro punto di vista, se noi dovessimo vedere quante sono le persone che in Italia pagano il canone alla RAI, tanto per dare un altro indicatore, diciamo così, di rispetto delle norme, sicuramente non troveremo che in queste aree c'è la maggior quota di evasione. Se questo è un aspetto del problema, dall'altro però dobbiamo anche ricordare, e il caso del presidente Vascellari lo dimostra, è che c'è un problema più generale, culturale, e che riguarda il valore sociale che non è assegnato alla piccola e piccolissima impresa, o comunque alle attività imprenditoriali in generale, nel senso che c'è un modo di vedere a questo tipo di attività di tipo sanzionatorio, anzi non dirà vessatorio, da parte dello Stato. Allora, è chiaro che c'è un'attenzione, e noi l'abbiamo potuto misurare anche qualche anno fa sulla popolazione e sugli imprenditori, c'è un grado di rispetto e di riconoscimento dello Stato assoluto, l'evasione fiscale non viene vista in modo positivo, anzi tutt'altro, viene sanzionata socialmente, però nello stesso tempo non possiamo non dire che quando lo Stato ti mette nelle condizioni o dice o realizza norme che tendono a limitare la tua sfera di azione anche economica, è chiaro che questo mette in crisi un valore sociale come quello del rispetto delle norme anche di carattere fiscale. Presidente Vascellari, dica la verità, quando lei ha fatto quell'uscita qualcuno dei suoi iscritti riservatamente le ha detto: oh, ma non è che ci esponi a peggiori ritorsioni? Esiste un po' il rischio quando uno deve decidere di alzare la voce, certo dei propri diritti nei confronti dello Stato, ma insomma tra gli iscritti qualcuno che teme poi la paura della ritorsione, vecchia maniera in cui lo Stato un po' borbonico, e che resta borbonico a nord, al sud, a est, a ovest nel nostro paese, e qualche iscritto magari ce l'ha? No, direi proprio di no, anche perché la nostra credibilità, quando alziamo la voce, direi che non è messa in discussione. Sono tanti i temi sui quali noi svolgiamo anche forse un po' il ruolo di agitatori sociali, rivendichiamo questo ruolo. Siccome lo facciamo con trasparenza, siccome normalmente portiamo i numeri di quello che facciamo, e l'ho accennato la volta scorsa, ci interpelli ancora sull'osservatorio lavoro, noi abbiamo i numeri. E, no, siamo credibili e i nostri associati sanno che quando diciamo qualche cosa lo facciamo in modo documentato e... Va bene, io ringrazio il Presidente Vascellari, ringrazio Daniele Marini, do voce anche a un contribuente della Valle di Ledro che a proposito dei rapporti con il fisco ci ricorda che per un ritardo di un giorno nel pagamento dell'ICI rapporto 2005, quindi nel 2006, per un giorno sovrapprezzo dovuto 30%, ogni sua possibilità, ogni sua facoltà di far presente che insomma era un giorno di ritardo 30% di imposta in più rimbalzata nei confronti dello Stato. Ecco, uno Stato così è uno Stato fiscalmente rapido. Rapinatore, secondo me, do un giudizio pesante, non so se ci sarò domani, ma comunque auguri a chi ci sarà a la versione di Oscar, no, insomma 9 in punto, come vedete si chiama 9 in punto, Sole 24 Ore chiama 9 in punto ed è 9 in punto, grazie in regia a Filippo Aureggi e grazie a Alessandro Marco Tulli, la linea Generale Radio. 9 in punto, la versione di Oscar.